Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti a tutti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e siamo pronti a chiudere un buon martedì. Questa settimana stiamo aprendo le porte alle poesie più belle di tutti i tempi e alle canzoni di conseguenza più belle di tutti i tempi, ma non a quelle scelte dal mio gusto personale, bensì a quelle scelte dalla rivista Rolling Stones e da Giovanni Rickler nella sua raccolta intitolata, naturalmente, Le più belle poesie di tutti i tempi. Non sono assolutamente tutte, a mio giudizio, però ho deciso questa settimana di prendere spunto da lui. Prima di leggervi alcune poesie, dove domenica abbiamo incontrato Leopardi e Foscolo, questa sera non ve lo dico, dovrete aspettare. Vi faccio ascoltare la canzone che secondo i Rolling Stones è al numero 2 come canzone più bella di tutti i tempi. E naturalmente, al numero 3, al numero 3 c'era Imagine di John Lennon, al numero 2, naturalmente, se la rivista si chiama Rolling Stones, non potevano non essere sul podio i Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction. Buon ascolto. I can't get no satisfaction. E per questa serata le poesie più belle di tutti i tempi sono quelle di Federico García Lorca, uno degli esponenti di spicco della generazione del 27, la generazione dei grandi scrittori spagnoli. E partiamo con la prima poesia, Gli occhi, che chiude il libro di Giovanni Ricler. Negli occhi si aprono infiniti sentieri. Sono due crocevia dell'ombra. La morte giunge sempre da questi campi occulti. Giardiniera che recide i fiori delle lacrime. Le pupille non hanno orizzonti. Ci perdiamo in esse come in foreste vergini. Al castello dell'Andrai, senza tornare, si va lungo il cammino che ha inizio nell'iride. Ragazzo senza amore, Dio ti liberi dall'edera rossa. Attenta al viaggiatore. E Lenuccia, che ricama i cravatti. Terra. Camminiamo sopra uno specchio, senza mercurio, sopra un cristallo, senza nubi. Se gli iris nascessero al contrario, se le rose nascessero al contrario, se tutte le radici guardassero le stelle e il morto non chiudesse gli occhi, saremmo come cigni. Imboscata. Morto. Morto restò sulla strada, un pugnale nel petto. Nessuno lo conosceva. Come tremava il lampione, madre. Come tremava il piccolo lampione della strada. Era l'alba. Nessuno poteva accostarsi ai suoi occhi aperti all'aria secca. È morto, restò sulla strada e un pugnale nel petto e nessuno lo conosceva. Madrigale. Il mio bacio era una melagrana profonda e aperta, la tua bocca era una rosa di carta, sullo sfondo un campo di neve, le mie mani erano ferri per incudini, il tuo corpo il tramonto d'un suono di una campana, lo sfondo un campo di neve. Nel crivellato teschi blu fecero stallettiti i miei ti amo, lo sfondo un campo di neve. Si riempirono di muffo i miei sogni infantili e la spirale del mio dolore trafisse la luna. Lo sfondo, un campo di neve. Ora domino serio l'alta scuola, il mio amore e i miei sogni. Puledri, senza occhi. E in fondo è un campo di neve. E anche per questa serata chiudiamo così. Ci risentiremo giovedì sera con per andare a scoprire qual è la canzone al numero 1 secondo la rivista Rolling Stones e per ascoltare le ultime poesie di questa raccolta selezionata da Giovanni Ricler, che spero vi stia piacendo dopo Pascoli. Cioè che Pascoli, sì. Dopo Leopardi e Foscolo abbiamo sentito Federico García Lorca. Buonanotte a tutti, dalle buonanotte di allineamenti e da ciao Radio Como. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.